guarda, mi sono dovuto sedere nella panchina della fermata del tram vicino a casa per farmi passare il dolore della gamba. E cappa. C'è un bambino, non c'è nessuno. Adesso quando chiude l'apparato, già entra Gianni, dovrebbe entrare. Ma non lo so chi può essere, e ce l'avevo anch'io, era omologato, ma adesso non sono più omologati quelli, se non hanno il marco CE, no. Infatti questo l'ho dovuto prendere per forza, perché è marcato CE, è omologato, capito? C'è anche nel coso del ministero. MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono tutte le normative, tutto quanto, ti spiega tutto. Sì, sì, io ce l'ho qua la pagina, me l'ho stampata addirittura, per sapere che apparecchi sono, e il mio c'è. Non lo so, io ho AM, FM e basta con questo, 40 canali e boom. Dovrei prendere la pagina del ministero per vedere se ci sono quelli che hanno l'SSB, però sono sempre limitati a 40 canali, la trovate, capito? Chi è che vuole entrare sul canale 10? Avanti. Negativo, non sento nessuno. E forse magari o era uno splatter, magari l'ha sentito da qualche canale di accento. E fai così. Dicevo, alla stessa maniera di quando c'è 4 watt, però noi siamo vicini, ripeto. Natalino! Via, che mi hai fatto sogno, dimmi. Ascolta, prova ad andare in FM a vedere se va bene, dai. Aspetta un attimo, Nico. Che sta fischiando? Sono tornato. Alla fine sono usciti loro. Io sono qui. Ti hanno lasciato solo il suo letto? No, è uscito babbo. Solo. Cardino, guarda, ho regolato l'apparecchio. Come va? Bene, stai andando. Oh, ma prima sei uscito per caso, eri tu con il Freelander, eri in macchina prima. Eia, sì, ero io. Ciao a tutti, dai, io sono a portare il cane. Ciao Riccardi, che microfono stai usando? Cosa? Che microfono stai usando? L'MB5. Ok, va bene. Dai, ci sentiamo dopo. Che sono a portare il cane. Gianni, lascia così, puntella, non toccese. No, l'ho già chiuso. Prova a rimanere laterale a vedere come lo vedi, come lo senti. Claudio, ti faccio sapere. A proposito del... In questi giorni non abbiamo avuto... ti dico. Avevo un nome. Aspetta che stanno provando in banda laterale. Io provo UTP. Provo UTP. Prova Gianni, USB ti ho detto. Io sono qua, dai. Te sto banda laterale invece che FM. Gianni. Ehi, a ritardi. Alla fine eri tu, ti abbiamo visto. E come hai fatto a capire che ero io? Dalla faccia, perché su WhatsApp hai la tua foto profilo e ti abbiamo riconosciuto. Ehi, era nero, il via Pascoli mi hai visto. No, le luci gialle. Ma stamattina? No, stasera. No, stasera le luci gialle non ci sono passate. Sei sbagliato. Il tuo fratello gemello. No, gemelli. Cosa? Non ho gemelli. Ok. Cosa? Claudio, ci sei ancora o stai andando a portare il cane? Quindi chi c'è rimasto? Ci sei? C'è Gianni, Natalino, Claudio non si sa e basta. E nessuno che riprenda. Riccardo, sto piazzando l'apparecchio, un attimo. Ok, ci stavo già parlando, tipo a Natalino, visto che non sta più parlando. Mica posso parlare sopra di voi. Riccardo, lo senti a Nicola? Vai Nicola che non ti sento forse. Ciao Lupo Grigio, ti sento a pelo, ti ho tirato fuori con le pinze. Natalino! Dimmi. Ma a te arrivo meglio? A me mi sta arrivando benissimo. Traduci, poi da fonte ripetitore che non lo sento bene. Nico ha detto che non ti sente bene Riccardo. Cappa, comunque Ricky allora. Beh, io me ne passo in quel ritti che devo fare cosa, dai, ci sentiamo alle prossime, ciao a tutti. Ciao Natalino, ben ascoltato, a più tardi o alle prossime, dai. Oh, ciao Riccardo, salutami a Gianni e digli che sono andato in quel ritti, dai. Pronto? Ci sei? C'è qualcun altro? Ehi, là, ci sono, ho chiuso adesso l'apparecchio. Prova a passare in FM, come ti chiami? Prova a passare in FM. Prova a passare in FM? Sì, voglio vedere, Catania a radio, io vai. Voglio vedere come va, dai. Ma senza il microfono amplificato forse, non so se va, adesso lo vedo, perché per passare in FM devo mettere il tornado. No, vedi, perché non ce l'hai in FM? No, lo stazione base, questo vintage, ha solo AM e SSB. Ah, ho capito, dai. Vabbè dai, se ti viene bene, se no lascia stare, dai, volevo provare per vedere se andava tutto bene, perché abbassati il vaso. Aspetta che stacco qua e metto l'antenna nel tornado. Sento 10, becco 10. Ehi, Robe, scusa che siamo un attimo in FM con... Riccardino, che stiamo facendo una prova, come sta andando la microfonia qua? A chi stai dicendo? A me stai dicendo? Ok, con te sto parlando, con chi sto parlando? Ho detto, guarda la microfonia, l'ho detto, sto facendo le prove in FM con Riccardino, pensavo che stai dicendo a lui. No, sta andando bene, ti ascolto bene. Aspetta, prova in FM, Robe, ce l'hai in FM? Certo, aspetta. Attenzione 10, brecco 10. Hola. Gianni. No, Gianni si è spostato, Riccardi. No, perché prima gli ha chiesto di fare una prova in FM, però io stavo chiamando e non mi sentiva. No, è andato in FM, mi ha detto sta venendo un ritardo, adesso si è spostato, mi ha detto non ho capito per quale motivo. Comunque funzionava, ma c'è l'FM tu perché? No, ce l'ho nel tornado, però tu c'hai l'FM per dirglielo un attimo che adesso l'ho staccato. No, è andato via Gianni, si è spostato. Ma infatti mi ha detto, non aveva detto, già c'erano le ferme, ma lui non c'è adesso, anche lo dico. Con che cosa stai uscendo, Rita? Adesso sto uscendo con il Colt e l'MB+5. Ah, non l'hai fatta la connessione di quel, come si chiama? E come, non mi viene mai il nome di quel cavolo di coso, espander. No, lo so, non abbiamo tempo, non siamo neanche riusciti a passare. Facciamo sta quel, facendo, siamo usciti per prendere le batterie, stavamo sistemando il capo, non siamo riusciti a fare niente. C'è un po' di propagazione e poi sono tutti tedeschi, questi in FM sono la maggior parte, molto furti. Ehi, c'era uno che stava ridendo sotto di te. Ridendo? Ridendo. Oddio, sono simpatico, cosa vuoi ti dica? Ok, cosa volevo dire? No, ti ascolto benissimo, bella radio, complimenti. Grazie, Robè. No, non tocco nulla, come ha detto Claudio. Ma tu adesso, se te lo posso chiedere, con che microfono stai uscendo? L'MC60 sto utilizzando. Ah, bello, bello. E vabbè, proprio l'adatto di questa radio, poi c'ho la Dunis, ogni tanto le alterno uno con l'altro. Ok, dimmi un po', ma le batterie adesso le state solo ricaricando con i pannelli solari, non state utilizzando l'alternatore della macchina? No, pannelli solari. Cercate di non sovraccaricarle, di non scaricarle troppo, perché sennò magari succede come un'altra volta. Ok, vediamo un po' se c'è qualcuno sul 10, ma la moto ci sei qua sul 10 tu? No, non ci sono la moto, cosa ci sono? 10 minuti, stavo parlando con Natalino, come sono entrato se n'è andato e poi c'è rimasto Gianni e poi si è entrato qui. Ah, quindi non sai che c'è l'altra gente, è strano che non ci sia nessuno oggi. Claudio c'era, ha detto che stava portando il cane. Sono entrato adesso, ma l'hai fatto quella l'attrattore, Riccardini? No, non ho fatto il tempo a fare niente, stavamo sistemando il camper, non siamo riusciti a fare niente, ci ha preso la maggior parte del tempo. E io non ti preoccupare, avevo cosa di sentirlo, vabbè, ciao Robert. Non sono arrivato adesso, ma mi sto svegliando. C'è freschetto fuori? Io sono entrato adesso 10 minuti, sono andato a farmi tagliare i capelli dopo tanto tempo. No, io devo prendere appuntamento la prossima settimana. Questa settimana è pieno. Che te ne fai i capelli? Via Alghero, no. Cos'è quello? Boh, non ricordo. No, via Torres. No, purtroppo il mio barbiere è morto, quello che era via Catalocchino, ci andavo da quando avevo 7 anni, 49 anni di barbiere. E adesso per la prima volta sono andato a questa fianca all'officina, di fronte alla cartoleria, bravo, mi ha tenuto quasi un'oretta, 50 minuti ha fatto di lavoro, ma si è presentato bene, bravo. Ehi, ehi, no, io vabbè, c'ero, prima scendevo giù a sacco il cuore, mi sono rotto le scatole, intanto con lo stesso pezzo, anche con lui un amico. Quindi alterno un po' da uno, un po' dall'altro, ho preso appuntamento qua vicino a casa, via Torres. Ok, avanti Riccardi, chi c'è rimasto qua? Chi c'è? Ma 10 minuti proprio per me vado a mangiare. Ehi, comunque ciao Claudio, ti ho salutato, ben ascoltato, mi fa piacere sentirti. Anche a me, signorino Riccardino. Ascolta, ma i toni a quanto ce l'hai di quell'MB+5? Zero. No, non mi biasi. Mettilo a uno. Adesso i toni sono ad uno. Mettilo a due. Due. Prova a parlare meglio così. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova radio. Adesso i toni dell'MB+5 sono a due. Va meglio, almeno occupa, no roba? Sì, l'abbiamo fatta l'altra volta, però se li solleva troppo inizia a saturare e gliela sporca la modulazione, non più di due, non sollevarlo più di due. L'abbiamo fatta l'altro giorno la modulazione, no, ma esce bene con quel microfono, lo vorrei sentire con questo Expander 500, sono curioso perché quello cacchio è una bestia. Io te l'ho fatto sentire il mio e praticamente hai detto che era il migliore di quello che avevo, di tutti quelli che avevo, quindi anche io sono curioso di sentirlo, però se non c'ha la connessione lui deve fare prima la connessione. Claudio, adesso per provare ho i toni a 7, 8. No, Riccardi, è troppo, non mi piace, devi metterli a 2 i toni, 2, 2 e mezzo, non di più. Ok, adesso comunque sono a 2 e mezzo. va bene, lascialo stare così come ti ha detto anche Roberto, perché sennò è troppo metallica zero, capito? Invece così ti rismorza un pelino, capito? Anche quando usi lo Spandau 500, ti ho fatto avere la regolazione, usalo con quella regolazione, i toni a 4, il microfono a 6, 7, capito? Sì, ho capito, quando lo provo la lascio così. Adesso si è fatto l'assistenza dei microfoni e Turner, Riccardo, quanti ne ha? Una decina in tutto, quanti ne ha Riccardo? Una decina, hai detto bene, 10. E cosa vuoi dire? Sì, sembrava un negozio di vendita di microfoni. Bello comunque, dai, sono contento. Poi piano piano sta iniziando a uscire alla grande, anche tu c'hai una bella radio, piano piano poi si sistemeranno anche le altre cose e vedrai che sarai uno dei più forti qua in frequenza. Eia, aspetta, ho inviato a Claudio la foto di tutti i microfoni messi insieme, aspetta. Guarda che l'ho vista caro mio, perché stamattina ero da Roberto, me l'ha fatta vedere, capito, l'ho vista, belli, e io ho i microfoni quelli della Kenwood, perché inizio con l'MC50, MC60, MC60, MC60, SM20, SM20, e poi all'ultimo c'è l'MB più 5 per il baracchino, capito? Ho capito, e infatti adesso devo fare a tutti quelli che gli ho mandato a Roberto le connessioni per ogni baracchino apparato. Certo, fai le connessioni giuste. Adesso ti provi l'Expander 500, magari con l'adattatore, o se vuoi cambiare la connessione della cambi, capito? E così ce li hai tutti, e anche gli altri. Fai le connessioni giuste, piano piano, le fai fare a Sergio. E così c'hai, come c'ho io, per ogni baracchino un microfono di tavola. E per ogni HF un microfono di tavola. Io il microfono da plomo non ne uso, non mi piazzi. Vai Robe, fai girare, vai, se c'è qualcun altro che vuole entrare. Ok, vediamo un po', chi vuole entrare avanti sul 10? Solo propagazione, va bene, no, anche io la cosa non mi sono mai piaciuti i microfoni da palmo, cioè tutti dentro, a parte l'M93 del Midland, sono tutti da tavolo, proprio li odio, sono scomodi, non mi piace, sempre da tavolo. Ok, vai Riccardo. Dipende se per le esigenze. Da tavolo, visto che ne ho, li ho buttati, ecco, li ho messi tutti in una scatola e conservati. Ma cioè forse c'è Gianni, avanti Gianni. Roberto, ho detto, dipende sempre dalle esigenze, io che mi sdraio nel letto, a me mi fanno più comodo quelli da palmo che quelli da tavolo, adesso per dire sono seduto e sto modulando con quello da tavolo, da tavola. Di tavola già, di tavola. Claudio. Sì, l'ho vista, Riccardo, l'ho vista, bella. Ma il microfono, quello che mi piace più di tutti è il primo. Quello ce l'è, eh? Sì, il più 2. Quando io te lo dissi, tu non mi credesti, capito? Quello è il numero 1. Poi hai visto com'è? Hai visto com'è? In che condizioni è? Tu ascolta Dio Claudio e compri sempre roba bella, l'altro, quello, secondo me non era neanche originale, invece quello che hai comprato è originale, capito? Perché io ce l'ho celeste, uguale a quello, originale, con tutte le scritte, originale, il cavetto originale, la molla nel cavetto originale, quello là era camuffato, capito? Eia, ho capito, sì, rispetto al tuo non l'avevo visto, guardandolo bene già si vedeva che era molto diverso. Se tu prendi le due foto con quella che ti ho mandato io, sono completamente diversi, anche il pomello di dietro non è dritto come quello che ti hanno mandato la foto a te, rimane piatto, capito? È una rotellina piatta l'originale, poi c'ha tutte le scritte, nel PTT hai visto, nella capsula c'è scritto Turner più 2, le cose devono essere giuste, perché se andiamo a comprare un microfono taroccato allora non va bene. Guarda che ce n'è uno nuovo, deve essere così, uguale a quello mio, hai fatto bene, bravissimo, e non toccese. No, oh, lo sai che a proposito di questi Turner, ne ho trovato uno, c'è scritto che lo vendeva, Raro Turner più 1. Non sai che non lo conosco, se ce l'hai quella foto mandamela, perché guarda io è anni che uso, ciao Gianni, che uso i Turner, li ho avuti tutti. Però questo più stia sfuggendo, Robè. Ma ha fatto la foto, ma è molto vecchio, sarà degli anni 60, se no prima, marroncino rimane, è un microfono mai visto, neanche io, c'è una specie di coso di dove c'è la capsula tipo dorato o qualcosa del genere, è un microfono strano, ma secondo me quello è minimo degli anni 60, se non prima pure. No, ma non è quello che hai visto tu, il Turner più uno, quello che gli sto dicendo è identico al più due, cambia solo due cosette. Ah no, no, no, non l'ho visto. Tu mi hai fatto vedere quello marroncino, che cos'era quello marrone? Quello mi sembra era uno Shure, se non sbaglio. Ah giusto, era uno Shure, non era niente, come sto dicendo che seria. Questo più non neanche io ho mai sentito. E aspetta, lo cerco. Vai Gianni, fammi sentire questa bella radio, io hai visto che ci sei riuscito, ti ha già detto, ci vuole più a dirlo che a fare, ma una volta tu sai dove andare a toccare, allora sei a posto, prova. Ehi Claudio, non è così facile, ho trovato difficoltà perché prima era R13 e qua l'R13 non esiste, me ne sono usciti gli occhi cercandolo l'R13, poi mi sono guardato lo schema e ho visto che l'R13 era a fianco all'R16, quindi c'era l'R36 a fianco all'R16 nel mio apparato, ho provato con l'R36 e regolavo con l'R36, però non era R13 come mi ha detto Luca, era diverso. Come mai già? Non ho capito, se sono uguali 3009, anche nel 4005 nel Tornado che c'è la stessa scheda, il VR13, vabbè, l'importante è che l'hai regolato, lascialo così, dimmi Ricca. Te lo sto mandando, praticamente questo è il più uno, a quanto ho visto, te lo mando adesso. Guarda, ma sono curioso di vederlo, perché ti ripeto, io in tanti anni nei microfoni ho usato tanti, quelli della Tarne, forse io sono stato uno dei primi che l'ho comprato, quello celeste che c'è anche tu. E l'avevo comprato la Pintus e Scarpa in via Cavour, con la faglietta KB23, ma ti sto parlando del 1975, quindi penso che ce ne ho pochi in circolazione. E poi ho fatto tutta la collezione dei Tarne, ne avevo tantissimi anche io, li avevo venduti a un collezionista di Milano, avevo tutta la serie Turner, la serie SBE, la serie ZG, addirittura della Turner avevo anche l'MP2, che è quello da Palmo, che è celeste lo stesso, celeste con la griglia bianca, e quello esce molto molto bene, se lo trovassi uno di quello, cazzo, l'attaccherei al Polmar, capito? Vabbè, adesso la guardo, riprendilo bene. Eia, no, vabbè, sono belli i Turner, sono tutti, poi secondo me quelli che vendono più di tutti nei baracchini sono i Turner, anche lo Shure, però Turner, da quelli che ho provato io, lo Shure non l'ho mai provato, di tutti quelli che ho provato numero uno è il Turner, anche se posso dire lo Shure l'ho sentito sul DAC, me l'hanno fatto sentire ed è una bomba. Sì, lo Shure l'ho provato anch'io sul DAC, ma anche la Sponda 500 esce molto bene sul DAC, escono bene tutti il Turner più 3, tutti a capsula dinamica, capite? Escono molto molto bene, il Turner più 2 esce bene perché l'ho provato con l'adattatore da 8 a 4, capito? Non ho quello da 4 a 8, cioè quello da 8 a 4, no, fanculo, va bene, dai, comunque l'importante è che abbiamo roba che funzioni, poi anche se sono vecchi vanno bene lo stesso, avanti già. E quelli vanno meglio di quelli nuovi. Se ti fidi vanno meglio quelli di quelli nuovi. Io... Lo bacio. Per la roba di una volta. Ehi. Certo che sì. Vediamo se c'è anche Massimiliano Bulldozer che poco fa ero al telefono. Massimiliano, ci sei? Ehi, positivo, buonasera a tutti, dai. Oh, aspetta. Scusate. Scusate. Io sarei proprio per me, bianco. Così. Ciao, buonasera. La bomba si arrivende. Bianco, il telefono per Massimiliano. Sera a tutti, dai, tutto Roggio. Ciao Massimiliano, ben ascoltato. Claudio, non me l'hai commentata la foto? Sì, hai ragione Robertini o Riccardi. Si assomiglia molto a quello celeste. Sì, la sagoma è quella. Cambia il colore. Non lo conoscevo, la verità. Il Turner più 1 non lo conoscevo, l'avessi uscito prima del Turner più 2. E quando io ho comprato il Turner più 2 nel 75, quello non l'ho mai visto in circolazione. Un bel microfono anche quello, uguale al Turner più 2, solo che cambia colore, però è uguale. Il più 2 è ancora più bello. No, più 2 è più bello, sì, lascia perdere, è più bello di quello, hai visto come è fatto. Quel rialzo che c'ha non mi piace del più 1. Allora, un attimo, ci vediamo, è tanto. Sì, vabbè, intanto saluto a tutti, tra. Volevo capire se c'era il rumore, quello tutto così. Assolutamente no, perfetto. Positivo, positivo, là, già mi ascoltate bene, sì. Una bomba, sì, bomba quasi più 30 radio 5. Ascolta, vabbè, gli ha fatto bene anche quella mollettina che ha ingrassato, hai fatto. Però il problema dov'era? Dove stringevi il cavo? Sì, il problema era lì. Il problema era quello, capito? E vabbè, va. Già sta andando bene anche questo là. Va bene che va bene. Chi c'è oltre a te? Ho sentito Riccardino, Gianni e poi... E Roberto che gli ha squillato la sirena. Ah, positivo, positivo. No, ho acceso anche i visuvici, mi arrivano forte, là. Avanti, Duppio. Ehi, come mi stai ascoltando oggi di radio? Che ha abbassato il VAT? Con le orecchie già, bene. Caro Agaba, ascolta, io vorrei fare una prova in FM, non è che ti è possibile passare da sul 15 a vedere se esce bene anche in FM questo microfono? Oh Gianni! Già, io questa non è che posso andare, ti posso ascoltare, là. Passa qua, vai qua in FM, prova. Gianni, io che pensavo che era sul 10 in FM, è per questo che non ti ascolto. Gianni, lo sai, sei attento tu. No, Massimiliano, ho detto che stava uscendo la bomba che ha scavalcato Gianni come segnale. Dimmi, Ricca. Oh, oggi ho conosciuto a Porto Torres. Hai conosciuto a Porto Torres? E a chi? A Eugenio. Signor Harley. Ah, Eugenio, no, pensavo l'avessi già conosciuto, Eugenio, sì. No, l'ha conosciuto Babbo, era andato Babbo a incontrarlo, oggi l'ho conosciuto anche io. Ah, sono contento, no, già gamba, è simpatico pure, troppo tovo, Eugenio. Hai visto, Riccardo, quanti capelli che c'ha? Sì, molti, secondo me anche il parrucchino, ne ha troppo. Il parrucchino c'era un altro. Sì, sì, c'ha un bel capelli, capito, c'ha un bel capelli pitbull. Massimiliano FM mi arriva sopra il 60, sopra il 60, ma anche in AM arriva leggermente più forte di Gianni. Anche Massimiliano ne ha molti di capelli. Riguarda adesso. Cosa come va Claudio la radio? Perfetta, non cambia niente, è sempre uguale. Hai aumentato il segnale, boh. Andale, dai. Già va bene, c'ha picchi positivi anche. Hai visto che non sei saturo già. Invece l'altro giorno eri saturissimo. Quella radio deve andare così, ho già capito. Meglio avere qualche watt in meno e uscire meglio, capito? Da agganciato a sganciato non varia niente, solo il segnale. Non so cos'è, ma doveva essere l'R13, il coso, invece è l'R37. Meno male che mi sono guardato lo schema ed era a fianco all'R16. L'R13 doveva essere a fianco all'R16, invece c'era l'R37, mi era lisce di luce a cercarlo, invece non ce n'era. Secondo me l'hanno cambiato quel trimmer, perché mi pare troppo strano l'R37. Il VR13 in tutti gli apparati, dal Tornado a tutta quella serie lì, Pluto, sono tutti VR13. Oh, magari questa cosa nuova, questi ultimi che stanno uscendo sono usciti così, capito? Lo schema risulta quello dei vecchi. Sì, no, non era toccato niente, era tutto perfetto, non c'era nulla toccato. Ho usato anche il cacciavite antinduttivo proprio per evitare di fare casino. Ma c'era l'acca, c'era la cera, quella bianca? No, non ce n'era, c'era l'acca. perché io li ho visti aperti, anche me li ha fatti vedere Massimiliano, io li conosco perché me li ha fatti vedere Massimiliano, e sono tutti VR13, figurati che anche il Galaxy è VR13, il Galaxy che c'hai tu, perché la scheda è uguale al 3009, al 4500 Tornado, al Pluto, sono tutti uguali con le schede. Lo so per certo, guarda, anche se chiedi a Fabrizio te lo dice, lo so per certo, vabbè, comunque, hai fatto, va bene così, non c'è problema. Cosa stavi dicendo, Riccardino? Io cosa stavo dicendo, aspetta, l'ultima cosa che ho detto è che ho conosciuto a Pippo. Ah, stavo dicendo che Massimiliano, anche lui ne ha molti di capelli. Vabbè, io adesso questi ultimi anni ne ho pochi, ma prima ne avevo molti, molti, molti, e anche ricciolini, capito? Ho capito. Sì. Beh, se tutti in una volta la ci vediamo. Diciamo quasi, là. Diciamo un po' di dispiaceri che ci sono anche aggiunti, là. Magari anche quello. E tante volte il fisico reagisce in modo... questo genere qua, o dimagrisci o succedono queste cose. Vabbè, dimagrito già non sono dimagrito, anzi, sono anche ingrassato. Però i capelli li ho persi quasi tutti assieme, là, capito? KK, avanti il quadrato, o rotondo, Massimiliano era biondo con gli occhi celesti, e poi si è fatto lifting ed è diventato senza capelli. Ah, vero, ma tu ti rendi conto che io fino a 13 anni avevo i capelli lisci, poi me li avevo tagliati a zero dal barbiere e mi sono cresciuti ricciolini e ricciolini. Li hai pottati, gli hanno fatto qualche lavaggio di qualche shampoo particolare e ti è cresciuta la rampicante. E hai fatto la permanente. La pianta di Anghessa è uscita. Quanto ho conosciuto io, Massimiliano, c'avevi i boccoli, no, i ricci, i boccoli. E io, te lo sto dicendo. Me lo ricordo perfettamente, avevamo piazzato i segni, avevi i boccoli, e poi dopo un po' ho iniziato a tagliarli, e te li fatti in usci come ti vedrai qua. Sì, adesso ogni 10 giorni aggancio la macchinetta, e tutta a terra, via. E io, tutti i bianchi mi stanno uscendo, e praticamente più della metà. Adesso ce li ho lunghi e quindi ci vedono molto di più, tutti bianchi, tutti brizzolati, va bene, che ora si è fatta? 8:20, avanti Gianni. A me invece mi si è fatta la ghiriga, e vabbè, le tacce purtroppo non per Massimiliano, ma per me e per te c'è anche l'età. Già, ma io vedo ragazzi di 20 anni adesso senza capelli. Lo so, anche mio padre ne aveva presi da giovane, è venuto un tifo, allora quando veniva il tifo non era curabile, aveva preso tutti i capelli, si sono indeboliti e li ha persi. Purtroppo è così. Guarda, per esempio mio padre ha 82 anni e ne ha più babbo che io, per farti capire. Ma che dipende sempre dalla persona, capito? Io ho visto gente anziana, c'era un altro giorno dal barbiere, questo anziano prima di me ha fatto una parrucca di capelli in terra. Ce l'aveva tutti quanti, bianchi, ma bianco proprio, un bianco intenso, un bianco neve. E ce l'aveva tutti. Così è. E così, va bene, va. E adesso vedo che io un altro paio di passaggi e poi mi sgancio, va. Quindi il microfono va bene, giusto? Alla grande. Ma Massimiliano, cosa stai uscendo? Con la S9. Il microfono? Il microfono palmare della CTE. Ah, ok. Perché ho... Vabbè. No, ma poi dopo hai fatto un'altra, non era con la potenza dell'apparato, hai aggiunto qualcosa dopo. Dopo quando? Prima, quando c'è entrato a Rugrebo, di lì non eri con la potenza dell'apparato, c'avevi qualcosa vicino. Sì, vabbè, giustamente. Perché è salito tantissimo il segnale, è quasi 9:30. Eppure lì entro, l'ho abbassato un pelino, perché prima li entravo con 1 watt, adesso li entrano con 0.5 watt, scarso pure. Oh, ti fai sentire, dai, ti ho sempre ascoltato bene, comunque non posso mai dire niente di te. E diciamo qua gli unici segnali sotto il 9, buh, non ce n'è, non credo che ce ne siano, sono tutti oltre il 9 qua i segnali. E quando c'è Eugenio al porto col furgone, di lì meno di 9, ma tutti gli altri sono oltre il 9 qua. Guarda, adesso io te lo aggancio in prima marcia, ok? Giusto per vedere quanto incrementa, così quanto sono, vabbè. 9 più 15. Ok, guarda, così è solo in prima marcia, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Leggermente di più di 9 più 20. E quindi già aumenta, aspetta, guarda, eh. Così è in seconda marcia. Un pochettino di più di prima. E così è in quarta marcia, vai in quarta, e in terza. E... 9,25 con i picchi positivi pure. E già va bene, dai. Ma può salire ancora? No, perché non lo voglio tirare questo, capito? Può salire se gli aumento il watt d'ingresso, ma lo lascio così, a mezzo watt scarso. Sono intorno ai 5 lì. Ah, Sagusi, già va bene, tanto siamo qua vicini, non devi fare nessuna prova di corso, di forza, non c'è bisogno. Ok, io vi assento qualche minuto, magari ci sentiamo dopo se ci siete, dai. E ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Riccardino, ciao Massimiliano, eventuali ascoltoni qua sul canale 10, a dopo, dai. Andiamo, ciao, ciao, a dopo, ciao. Vieni, perché devo portare il cane, ma lo porto più tardi, perché l'ho portato alle 6, adesso lo porto verso le 9, dai. Ciao Roberto, a più tardi. Perché? Ciao Robby, ci sentiamo a più tardi. Ciao Daniele, avanti. Ciao. Salutoni circolari a tutti. Uè, Danielitos. Buonasera, buonasera. Ciao Daniele, buonasera. Massimiliano da questa parte. C'è qualcuno che ha bisogno di un controllo, mi sa. E chi è? Sì, Antonio? Ok, ciao Antonio, qua siamo nel nord Sardegna, in compagnia di un pugno di amici, dai, tutti qua più o meno del nord, e qua nella mia station mi arrivi Santiago 9, Radio 4. Sì, sì, positivo, siamo qua nell'isola Sarda, in quelle di Sassari. Come? Come del cavallo? Del corallo, quello del corallo, non del cavallo. Noi siamo Sassari, nord Sardegna, dai. Ok, ti rilancio gli amici qua che verranno un po' di darti un controllo anche loro, eh. Ok, vai Gianni, riprendi e fai girare. Ciao Antonio, ben sentito, l'operatore doppio run che ti super cordializza. Avanti, e mi fai sapere come sta arrivando in quella zona. E io c'ho un po' di quarrena, non lo sento più. Idem con le patate, è sparito. Io solo del radio stavo uscendo. No, ma mi è sparito, sicuramente si sente, ma mi è sparito, io non lo sento più, prima l'ho sentito Santiago 7, però adesso c'ho QRM, non lo sento. Vediamo un po', Antonio ci sei ancora? Vabbè là, si sta abbassando un po' la propagazione. Là. Ciao Daniele, avanti, riprendi. Kappa. No, io non lo sentivo perché mi sta arrivando... Non so, c'è qualcuno in FM, sicuramente propagazione mi sta uccidendo. Ciao Daniele, comunque. Daniele, ciao Riccardino, ti ha salutato. Ciao Riccardino, mi hai sentito? Sto parlando anche con mio figlio qua, e... 20 persone contemporaneamente. Daniele, ma poi l'avevi trovato quella gain, o no? Non l'hai trovato? Claro, non sono ancora salito su da mano, vita sicca, non ho avuto tempo neanche. Volevo salire stasera e mi hanno fatto la notte, è stata una notattaccia e non ho avuto modo qua. Vabbè, rimane sempre col microfono, giusto per capire se funziona, se va bene. Il microfono tuo, capito? Però se non ho la radio da provare non ti posso dire niente perché quello c'ha un connettore diverso. Capito? Va bene, va bene. Avanti, doppio. Sì, Daniele, ma con 48 sì. No, questo è l'87 già. Ah, perché il 48 è anche il mio prende splatter, mamma mia. In casa non si può trattare. Se parlano nel canale 23 li sento tutti. Per lo meno sono tutti vicini a casa. Se li sento mi alzeranno tutti. Ma si compra di più nulla? Proprio non sento più nessuno, mi fanno abbattimento zero. E vabbè, vuol dire che si userà in macchina, se mi decido fin là me lo metto. Me lo metto in macchina e via. No, questo è abbastanza selettivo già, l'ho preso per quello. Già lo so, però se nel 10 ci sono, c'è propagazione, che ci sono stranieri che parlano e stanno arrivando anche abbastanza forte, e qua diventa un macello, capito? Sì, ho capito, Dani, ho capito. Però se c'è qualcuno negli altri canali, io neanche li sento. Vabbè, no, il 40 è diverso, il 40 non è selettivo per niente, proprio dire tutta la mondezza qui. Oh ragazzi, dai, che io sono ancora vestito. Mi metto in sesto e mi guardo un TG e poi vado a cenare, dai. Un abbraccio a tutti, ciao Massimiliano, ciao Riccardino, Gianni, Daniele e anche Roberto. Ci sentiamo domani, tanto io spengo, dopo lascio acceso a volume basso, ma non entro più, dai. Meno che non ci sia niente la TV, ma non credo. Il cambio per Riccardino, aspetto i finali, poi chiudo. Ciao a tutti, a domani. Ciao. Ben ascoltato, alle prossime. Io penso domani è venerdì o cos'è? Sì, domani è venerdì. Sì, domani è venerdì, Riccardo. Allora ci sentiamo solo di mattinata e poi vado in camper il fine settimana e se non ci sentiamo lunedì, clà. Eia, va bene, dite a papà a mettere nel camper una radio, capito? Così ci sentiamo anche dal camper, vai. Ciao, un abbraccio a tutti, a risentirci, vai Massimiliano. Ehi, ehi, ciao Cla, allora, buona cena, buona carichetta, ci sentiamo nel prossimo, va, vieni. Riprende, va, riprendi tu Gianni. Chi me ce l'avete chiamato, ciao Cla, non ti prometto nulla, ma forse domani te lo avvicino, dai, che sono di turno di pomeriggio. Me lo metto in macchina e poi ci sentiamo. Massimiliano. Io avevo rilanciato Daniele, però forse sta facendo cosa. Avanti Ricca. Ho augurato a Claudio, scusa, buona carica, vabbè, riprendo io. No, hai detto per Rum che ci vediamo, no, io non sono andato in carica, sono ancora qui. Ho sbagliato, volevo dire Claudio, ho detto Riccardino, ho sbagliato. Ok, no, perché l'ho detto perché avevo paura che di solito un'altra volta mi avete pensato che me ne stavo andando e poi ero ancora qui. Non c'è problema Riccardini, non c'è problema, a parte che poi tu chiami se proprio succede, ma non si fa certo per male, e magari abbiamo capito. No, sì, distrazione qualche volta, qualcosa. Ma sto, ma nel camper cosa mettete, la radio? Certamente, non manca mai una radio in ogni veicolo. Ma ce l'avete già? Sì, è già preparata. Ah, va bene, ok, ma che ci hai messo? Un SBA con il Turner più 3 e per sicurezza ho messo anche il suo palmare originale. L'SBA è quello che ti ho mandato, e la marca invece, ho sbagliato, non ti ho scritto SA la marca, invece la marca è SBA e il modello è SA2800. Ah, non l'ho visto, perché stava caricando il telefono, non ho sentito nulla, era spento. Avanti di nuovo, riprendi. No, però l'ho mandato da un po', vabbè, riprendi Massimiliano. Ho detto, come non ci mette un tornado lì, che c'ha un po' di canali e ti puoi divertire di più di quello? Ma infatti, quello è l'arco principale. Il tornado ce l'ho dentro la macchina. Io praticamente ho la cellula, nella cellula c'è una radio e nella macchina c'è il tornado. Ah, ecco. Ce l'ho anche io il tornado, Io ho il tornado 4005. Io ce li ho tutti e due, il 34S e il 4005. Prima io ce l'avevo il 34 con i 120 canali e me l'ho venduto. E mi è tenuto il 4005, che è uguale al 3009, preciso identico. Ma il bello è almeno questo, il 4.5 ha un pochino di roba in più, per chi interessa tipo è CW e poi in più ha anche i canali alfa. Sì, e c'ha 6 bande. E cos'ha in più? Aspetta, c'ha FM, AM, USB, LSB e no, ti sto dicendo, il 34 esce a FM, AM, USB, LSB e poi... E basta, adesso ha 34 canali, se non che è stato modificato con schede e quant'altro, se no arriva lì e basta. Ah, infatti, però almeno se io mi voglio spostare nei canali alfa, quando, come l'altra volta, con il tornado lo posso fare, invece non ho nessun altro baracchino che si aggiunge 10 kHz. Eh sì. Il tornado c'ha anche 10 kHz, è vero. Invece il 4005 c'ha qualcosina in più del 34, va. Eh sì, due cosette, però alcune per chi serve sono, come dire, fondamentali. Certamente che sì. Daniele, ci sei? Eccine, ci sono. Aspetta, sta innescando questa cosa. Guarda come adesso, Massimiliano, che è ore 15, che era passato leggermente il parlo ascolta l'altro giorno e quindi posso aumentare più la radio adesso. È buono, è che si sono messi questi qua in banda laterale. Lo so Massimiliano, io sono ammazzendi. Ehi, va bene. Dai signore, io mi stacco e vado anche io a fare carichetta, là. Sennò qua la cosa diventa amara. Ci sentiamo le prossimine, dai, vi ringrazio il corso e buona serata a tutti e ci sentiamo le prossime, là. Ciao Riccardo, ciao Gianni, ciao Daniele e chi fosse l'ascolto in questo canale, dai, ci sentiamo, avanti Gianni, riprendi e chiudo io, ciao. Ehi allora, ciao Massimiliano, buona carica, quando la fai, ci sentiamo, avanti Riccardo. Ehi, grazie Gianni, ciao Massimiliano, mi ha ascoltato e alle prossimine, buona carica e a più tardi, o se no ci sentiamo lunedì. Ciao Massi, buon proseguimento di serata, dai, alle prossime se coincide. Riprendi Riccardino. Ehi, riprendo io, mi sa che anche io fra un po' faccio una carichetta veloce, mi mangio due cosette così poi non ho il problema stasera che voglio, così faccio queste ore. Va bene. Anche qua è quasi addirittura l'arrivo, la cena. E va bene, riprendi Gianni Gay. E io riprendo con ricarica anch'io la mia, vi saluto tutti e riprendo più tardi. Adesso faccio da mangiare al cane, scendo giù un po' col cane e poi mangio anch'io, dai. Ci sentiamo per il momento, è stato un piacere e vi saluto tutti cordialmente. A dopo. Ciao Gianni, saluto anche a te Daniele e poi a tutti gli altri eventuali di ascolto. Vado anch'io in carica, come ho detto faccio una carica veloce intorno. Va bene Riccardi, dai che anch'io adesso mi sacco da qua, dai. Buona carica e se ci sei a dopo. Anch'io stanco, dai. Saluto di circolare a tutti, anche l'eventuale ascoltori, dai. A dopo se coincide, ciao. Ciao Daniele, ciao a tutti e a più tardi. Sto scherzando. sta arrivando con un segnale fortissimo. Cioè da casa sentivo sto fischio, sembrava un urlo. E non rispondi più. Ich brauche keinen Zuschnitt, ja? Nee, normal nicht.